5, buonasera, Benedetto 5, buonasera. Binario 5, buonasera. Avanti, buonasera. Buonasera, binario 10, operatore Gavino. Coordinate Nord Sardegna SP25. Avanti anche al mic, buonasera. Buonasera, binario 10, operatore Gavino al mic, coordinate Nord Sardegna SP25. Buonasera, binario 10, operatore Gavino al mic, coordinate Nord Sardegna SP25. Avanti. E avanti. Chi è avanti? Gianni, buonasera. Ma vai, cosa Gianni, cosa Gianni? Natalino? E io, ciao Carlo. Ciao, scusami, ma sono in macchina e ho lo stereo acceso. Poi ho conosciuto la seconda cosa Gianni, ho detto questo è Natalino. Sono a Freddanietta, come mi senti Natalì? Sì, tutto a colori. E nemmeno, tutto a colori va benissimo. E cosa stai facendo a Freddanietta? Stavo cercando di quei contenitori trasparenti perché ho disfatto l'albero, no? L'albero di Natale con palline eccetera eccetera. Allora stavo cercando quei contenitori trasparenti per metterci tutto dentro, perché almeno così lo metto sopra il soppalco in garage e così non devo stare a cercare, perché se lo metto nelle scatole poi ce ne sono 40.000 di scatole e le devo aprire tutte per capire dove è una cosa, dove è l'altra. Invece se metto quei contenitori di plastica tipo scatole, no, che hanno il tappo ermetico eccetera, metto là dentro e così almeno riesco a trovare subito le cose quando le cerco. Nel risparmio a casa ci sono quelli lì, a fianco a un euro. Infatti sono andato da Mauris, ma sono una cagata quelli che ci sono con le ruote, a me non me ne frega niente delle ruote, costavano 25 euro, ho detto ma questi sono scemi, io volevo spendere un pochettino di meno. Carlo, buonasera, vai da cosa, la bricocina, che ce ne hanno di tutti i colori, ne hanno piccoli, grandi, medi. Mi sa ci farò un salto dove mi ha detto Natalino, oppure lì da Bricocina, immagino ce ne siano. Perlomeno, io li ho visti, tempo fa li ho visti, c'erano tanti tipi, ce n'erano di tutte le dimensioni. E allora, siccome sono in quella direzione, mi sa che faccio un salto lì. Buonasera comunque. Buonasera, io adesso ho acceso, sono in macchina e pensavo fossi tu dal MIT, invece era Natalino e poi ti ha sentito anche tu. E io ero all'ascolto, ho sentito tutto, Natalino ha schifato perché l'hanno scambiato per me, devi essere fiero che ti hanno scambiato per me. E vai, vai, fatti tornare il resto che ti hanno fregato. Oi, oi. E io mi sto guardando Urbex e poi ho acceso, dai. Quello, queste cose non le avevo mai viste, ma mi stanno davvero interessando, dai. Queste visite nelle case, oggi sono in un obitorio per parlare con i morti che ci sono stati. Oh Gianni, lo sai che ho sentito che non siamo in regola, che la concessione la dovevamo pagare per forza, se no decade, se ti trovano senza concessione ti sequestrano tutto. Ma chi l'ha detto? Dicendo lo salvano. Ma sono cavolati, perché nella gazzetta ufficiale c'era scritto praticamente che non ci voleva più la concessione e non si pagava più la tassa, per cui quello che dice la gazzetta ufficiale è quella la cosa giusta. Se la gazzetta ufficiale era scritto, e allora siamo in regola. Sì, ma poi lo sa tutto il mondo, lo sa tutto il mondo, e allora chi è che ha spasso questa voce che non si pagava più? E gente che si crede al di sopra di noi. Ma infatti anche a me sembrava una cosa strana, che non si pagasse più la concessione. E ho detto 12 euro si fanno i soldi anche da lì. Ma secondo me non è vero, perché talmente sono pochi ormai Citizen Band che se dovessero reintrodurre la tassa, allora è la volta che scompare tutto, capito? Non c'è, a parte che queste cose le pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale oppure su internet, ma magari su siti istituzionali eccetera, basta entrare e controllare bene, ma non credo, capito? Ma anche il continente sanno la stessa cosa, perché io vado su siti dove ci sono CB che parlano di queste cose, anche il continente sanno che è così. Allora, l'hanno abolita circa un paio d'anni fa, no? E non credo che la reintroducano così senza preavviso, di punto in bianco, capito? Non credo, capito? Io ho tutti i bollettini pagati, sì quando è caduto sono tutti i bollettini conservati e pagati. E infatti, ma ormai io lo feci in passato e quando ero a Bonorva pagavo, capito? E poi avevo mandato la disdetta perché avevo staccato tutto e quindi non ne pagavo più. E poi sono rientrato consapevole del fatto che non si pagava niente, capito? Sì, ma tutti sanno così, no, almeno che sia stata una voce che hanno sparso, ma non penso. Io so che era sulla Gazzetta Ufficiale, poi bisogna andare a controllare e vedere. Sì, infatti, dai, tra dire il fare c'è di mezzo il mare. Vedremo e controlleremo. E appunto, ma le 12 euro non è che costava nulla a pagarle, però se ti dicono una cosa e poi ne fanno un'altra. No, magari sicuramente sul sito istituzionale del ministero, no? Delle concessioni eccetera, là ci sarà scritto, poi basta cercare anche sul motore di ricerca su Google Citizen Band autorizzazione e magari si porta sicuramente a qualcosa di ufficiale e si controlla lì. Io adesso che sono in giro, se no l'avrei controllato anche col cellulare. Infatti io sono coricato, sono sdraiato, non ne ho voglia di alzarmi, ma comunque dovrebbe essere una cosa ufficiale il fatto che non si paghi. Io sono 2 anni che non ne pago e mi è decaduta per forza. Sì, ma se il concessore non ce ne vuole più, cosa ti decade? Non ci vuole più niente. Infatti io sapevo che non si pagava. Io la concessione ce l'ho, però poi hanno detto che non serviva più pagare né niente, quindi non ne ho più pagato. Comunque basta controllare nella Gazzetta Ufficiale. Infatti, dopo quando rientro già controllo. Adesso mi fermo qua da Bricocina, sono alla rotatoria, le vicino. Poi ci sentiamo dopo, Natalie e Gianni. Tanto ci impiegano una decina di minuti, se trovo tutto me ne prendo un paio e ho finito. Chiedi all'entrata, ci sono i commessi, dove devi andare, mi pare che erano in fondo. Già le trovo, già, dove c'è tutta la roba di plastica sicuramente. Mi sa che era l'ultima corsia sulla sinistra entrando, anche dove c'era la roba di plastica. Adesso scendo, ci sentiamo tra un po', dai. Avanti, avanti. Comunque informatemi e fatemi sapere, perché stavano dicendo che è tutta una sciocchetta che non si fa. Ma la gente dice, poi no, non so un capo. Ascoltiamo quello che dicono tutti, noi. Sì, ho capito. Ma se io sono su un sito dove ci sono tutti i CB, no? C'è gente che entra, no? Invece cosa devo fare per la concessione, per pagare la tassa? Gli rispondono tutti, non c'è più né concessione né tassa. In continente pure sanno così. Infatti, l'importante è che sia scritto nella Gazzetta Ufficiale, però. Io ci sarà sicuramente, pure lo cerco. Vabbè, le metto con la soddisfazione. Infatti, almeno sappiamo cosa rispondere. Ma non mi sembra una cosa veritiera, Natali. Anche a me. Mi chiedevo se potevi aiutarmi a cercare. tutti sanno la stessa cosa, almeno che hanno fatto qualche fake e ci hanno creduto tutti, ma non penso. Ma che ci siamo caduti tutti, mi pare strano. C'è sempre quello che va a controllare, a vedere se è vero, capito, che lo si fida, c'è sempre quello che va a controllare. E infatti. Si vedrà. Se c'è da pagare le paghiamo, tu dici, qual è il problema? Ma tocca rifare la concessione. Perché ormai è decaduta, che siamo 2 anni che non ne paghiamo. È un'autocertificazione, si scarica da internet. Non è più come che prima che mi veniva certificato di buona condotta, certificato di cittadinanza italiana, certificato di residenza, insomma venivi veniva carta mollata, insomma ce ne voleva poca di roba. Io lo so, io ho la coppia di quella che mi avevo fatto, ma adesso ci informeremo. Vabbè. Oia. Bisogna vedere sempre se è una cosa veritiera, boh. Ma l'hanno detto su internet o dove? No, no, l'hanno detto dalle parti di su. Ah, no, non so, anche a me sembrava una cosa molto strana, è la verità all'inizio, perché toccavo almeno le 12 lire si incassano, se non altro, non nessuno butta via i guadagni, no? E infatti, no, ma dice che era proprio una legge che avevano fatto. Eravate solo tu e Carlo? Cosa, già? Ho detto solo tu e Carlo eravate. Ehi, ha chiamato lui. Io non ascolto e lo rispondo. Ah, e Tonino si è sentito? Negativo. Sì. E magari impegnato. Sarà una Murendi. Tu furuga. Adesso domani mi tocca andare all'ospedale perché non rispondono. E quando mai rispondimi? E mi hanno messo, per fuori le dimissioni mi hanno messo che devo fare le lastre alle ginocchia. Sono stato operato al femore e devo fare le ginocchia, mi pare strano. E come è sembrato strano a me, è sembrato strano anche al dottore. Ha detto, se uno opera al femore, fanno fare le lastre al femore, non alle ginocchia. Sì, avranno sbagliato. E non so, ma io devo essere sicuro, Natalino, non posso andare a farmi fare un'impegnativa che poi non va bene. Sì, infatti. Ciao ragazzi. Cosa già? Gabino, non si è sentito? No, ho sentito solo a Carlo e boh. E adesso già fa in fretta, già le trova subito lì. Lì c'hanno tutto, anche quello di cucina, tutto trovi. E se non se ne va a rifarmi a casa, e lì li trova sicuramente che li ho visti io. Anche io li ho visti da quelli di cucina. E ce n'era la più piccola la più grande, un me ce n'era. Io bisogna permetterci documentazioni, tutta questa roba qua. Dai, sangue di amici. Ho capito. Non posso fare io. Anch'io. Però ma devo solo avvisarvi che è una procedura un po' rischiosa. Vediamo un po'. Che utilizzeremo dovrà essere in giro di pompa di sangue per 2 persone alla volta. Cosa ti volevo dire? Ma c'era una cosa che ti volevo dire e mi è scomparsa dalla testa. Oh, guarda, questi uffici c'hanno il numero di telefono per niente, non rispondono mai. Per bellezza ce l'hanno il telefono. Oh, devi andare in persona per forza, dai. Io sono stato fortunato che quando ho telefonato al cupo mi hanno trovato subito. Come si chiama l'appuntamento? Poi non so se era un apportante o se eri tu che sei uscito male. Ah boh, non lo so io. Ho detto, io sono stato fortunato che mi hanno trovato subito il posto per quel ecodoppler. L'hai già fatto? No, devo andare il giorno 17. A Protamo? Yes. E così ti fai un giro. E almeno guardo in che condizioni oggi c'era un mare pauroso. Quando è così è bello prendere seppie, però da presto, da mattina a presto. E non c'è più la camera informatica, lo sai. E come mai? Non trasferito via Venezia. Via Venezia non ha fatto la cavale per barica adesso. Ma non so perché l'hanno trasferito, visto che era un posto di mare, io l'avevo fatta lì. Andava meglio lì. Ma essendo un posto di mare, magari qualche embolo, qualche sub che abbia qualche embolo, se può succedere. Se è in un posto di mare, lasciala lì, se è per quello. L'ho trasferita a Sassari, vabbè, è privata, è una struttura privata che praticamente è appoggiata alla SL. Ah, non è pubblica, no? No, cioè praticamente il direttore, come si chiama, quello che... ma l'autorino l'ha ingoiata. Io ho capito. Poi c'è Antonello che è quello che guida proprio tutta la maradana. Io ho capito. Ma... comunque la struttura pubblica si doveva dotare di una cosa del genere, non farlo fare ai privati. Sì, ma è convenzionata con la SL, capito? Io ho fatto l'ho fatta lì, la camera ipermarica, l'ho fatta per diverse volte lì, per la storia dell'ulcera. Io già ho capito questa storia. Ma... aiuto. Tutto va bene, quindi... devi fare la decompressione, come quando sei sott'acqua. Mi serve per quello proprio. Ecco. E poi c'era un operatore subacqueo, un saldatore subacqueo che aveva avuto un embolo e dovevano riportarlo alla profondità dove l'ha avuto, poi farlo risalire piano piano. Quello lì lo faceva insieme a noi lo stesso. E tanti trattamenti si fanno con la medicina iperbarica. Sì, perché ossigena di più il sangue, capito? Vabbè, dai. Un attimo di stand-by che mi ha preparato la pappa, la signora qua. Sì, già. Che ore sono? 7:05. Allora, mangiava, tranquilli. Buon appetito. E ascolto, comunque, già entrerà Carlo pure. Natalino, dimmi già. Se sei all'ascolto, guardati WhatsApp che ti ho mandato. Mi fa sempre di giù, c'è la gara di. E adesso lo guardo, va. Oh già, non mi è arrivato nulla. Ascolto, rimane. Ma è un coso Decathlon, deve essere, e boom, mi è arrivato. Non mi arriva nulla. Questo messaggio è stato eliminato. Ma che te l'ho mandato adesso. È arrivato a te. Via. Adesso me lo stampo pure. Cosa, Natalia? Che me lo stampo! E l'allora del futuro non si va a cambiare la tassa io. Io non so chi io. Gianni, visto che c'è l'articolo di legge e tutto, l'articolo 38. Cosa, Natalia, che ce l'ho adesso se non ti ho sentito? Articolo 38, comma 1, lettera G. C'è anche l'articolo di legge. L'ho scaricato la gazzetta ufficiale io. E infatti vadano a dire cavolate altrove. Ci facciano un brodino di marmo. Ma bello grosso. Ci sono gli apparati CB e PMR. Non si deve pagare nulla, l'hanno abrogato più. Sì, ma io ero già convinto che era così, dai. E anche io lo sapevo, solo che non mi ricordavo dove l'avevo letto. Adesso c'ho l'articolo, mi ho stampato tutto, in modo che chiunque dica delle cavolate so come rispondergli. Con la legge in mano, capito? E appunto qua. E poi non si sarebbe saputo tramite gazzetta ufficiale, tramite internet, boh. E infatti cosa? Se la rimettono devono rifare una legge per metterlo. Che ormai quella lì è stata abrogata e quindi devono farne un'altra se vogliono rimettere la tassa. Voglio fare. C'è l'articolo di legge pure. Articolo 38. Comma 1, lettera G. È l'abrogazione dell'articolo 145 delle leggi della radiocomunicazione elettronica. Ma che ore sono, Natalia? Le 7.26 c'ho lì. E c'ho, beh, ce lo dico di preciso e guardo l'orologio. Le 7.30. 7.30, da. Ah, mi sembrava me l'avesse fatta l'orario, che devo farmi le parine, se no, oiui. Infatti. Ma c'è che deve fare? Ma che ora la devi fare già? Alle 8. Alle 8 la devo fare. Caro Natalino, avevi ragione. E cosa? Sono andato dove mai detto tu, risparmio casa, vicino, e le ho trovate, 7,99 in offerta. E te l'ho detto che le avevo viste lì. Ok, e anche per la roba CB abbiamo risolto. C'è la legge proprio che hanno abrogato sia la concessione che pagare la tassa. C'è l'articolo di legge proprio. Quindi l'hanno di nuovo rimessa. No, negativo, l'hanno abrogata. Articolo 38, comma 1, lettera G. Ah, ho capito, bene mera allora. E infatti io ero rimasto a quello. Abrogata, sì, non avevo percepito quella parola. Non l'avevo sentita, forse avevo schiacciato il mic. Esatto, infatti non credo che la restituiscano, perché sennò non vendono più niente. Oltre quello, muore del tutto. Già, c'è poca gente. Gli vai a pagare pure 12 euro. È logico che la gente non ci parla più. Quando puoi cominciare? I radioamatori si stavano lamentando per le 5 euro che pagano loro. E dice che noi dovevamo pagare lo stesso, le 12 euro, invece no. A noi ce l'hanno abrogata sia per i CB che per i PMR. Ed è quell'articolo 38, comma 1, lettera G. Anch'io avevo letto così, praticamente anche i PMR, quelle radioline lì, non pagano più la tassa. No, non si paga, l'hanno abrogata, quindi tolta dall'articolo 145 che regola le comunicazioni elettroniche. Esatto, prima sono passato da Bricocina, diciamo che ne avevano, ma erano carucce, intorno ai 22 euro, 20 euro con le ruotelle, ma io le volevo quelle semplici, trasparenti, da 60 litri, ci sta un sacco di roba, hanno la chiusura ermetica, non entra polvere e sono trasparenti, per cui vedi tutto quello che tu ci metti dentro, capito? Io ho il soppalco in garage, no? Per tenere libero giù, e un soppalchetto dove c'ho valigie e scatole, ma le scatole le ho quasi tutte eliminate, me ne sono rimaste due o tre, e adesso avevo queste cose di Natale, adesso le metto così, almeno quando salgo mi metto la scala, vedo cosa c'è e tiro solo quelle, se no con le scatole di cartone ogni volta ero incasinato, prendevo, aprivo, e questa non è questa, e così ho risolto. Le ho pagate 7,99 in offerta, costavano 10,59, una cosa così, in offerta erano a 7,99. Me ne ho preso tre e così ho risolto. Infatti, almeno prendi quella lì, solo la scatola e via quando la accendi. Con le scatole di cartone da Campilli, un macello. Esatto, i cinesi maledizione si sono adeguati coi prezzi, si sono rincarati un bel. E anche io e un amico stavamo guardando ieri e abbiamo visto proprio lì da Bricocina che la roba era un bel cara. Ma cara sai, avevano anche prima detersivi a buon prezzo, cercavo io se c'era acce e cattivi odori, no, e lo metti negli scarichi, capito, e ti profuma lo scarico del lavandino, eccetera, perché ogni tanto fa un po' di cattivo odore, perché ci butti tante cose, capito, costava, lo pagavo 2,90 euro, una fesseria, adesso ho aumentato 5,60, non ne ho preso. E un po' di roba hanno aumentato. Poi ho visto che c'è roba di marca, è logico che te la fanno pagare perché è roba di marca, quella che c'è. Stavamo guardando degli attrezzi di lane carissimi, però erano di marca, Sì, esatto, acce, insomma, quelle cose lì, quei detersivi sono abbastanza, diciamo, conosciuti, fa roba buona, e lo trovavo sempre a buon prezzo, capito, lo prendevo lì, invece non ne ho preso perché ho visto che l'hanno quasi raddoppiato, che cavolo. Ma quegli attrezzi lì costavano l'ira di Dio, abbiamo guardato io questo amico e ci siamo stupiti, perché lui è troppo gariso, ma sono di marca, giudizio, vabbè da gamma caso. Oh, niente, adesso me ne sto rientrando, sono a Santa Maria di Pisa, sto facendo quel giro lì da via Solari, e poi faccio, insomma, Ponte Nuovo e me ne rientro. Attento lì a Santa Maria di Pisa che non te ne esca il negro che ti vuole vendere la bamba, mi. Già c'ho la scossa elettrica per quello. Che pizzina. Ha un amico mio qua vicino, se gli ha avvicinato un negro gliela voleva dare. E Gianni, c'è ancora? Sì, ci sono Carlo, ci sono, dai, sono qua. E anch'io me la devo comprare, perché sai cosa faccio? Ci metto gli ultimi documenti, tutti i pagamenti del condominio, questa roba qua, tutte le cartelle, e poi li metto dentro quelle scatole lì, capito? E sono più riservati, dai. E ti metti la picchiriola dentro. Guido mia, Guido mia, con la picchiriola in mano, bobo! Adesso sono rientrato, raga. Ho visto tua moglie pure Natali. Ciao comunque, ciao Carlo, ciao Gianni. Già me l'ha detto, ciao Tony, buonasera. Ciao, buonasera. Ehi, io ho appena acceso, ho sentito già che il negro te la vuole dare, Natalia mia, tu sei buccaccione, raga. Ti ho detto, mi state maliziando, raga. No, a questo amico mio, a quello che ti ha parlato ieri. Ci sono passato. Si è avvicinato questo negro, invece di chiedergliela a lui. Il negro gliela voleva dare la bamba. Dici, ma che gente. Io l'ho sempre detto, sta bene in campagna e non ne trovi di questi negrotti. Ma punaggia è così, no? Che ti intendi un ghetto, ti intendi. Non era così, no? Mi hanno messo una bicchiettina e allora. Io, la gabbiglia. Cosa hai detto già? Ho detto questa bamba, che non me ne intendo, cos'è? Un acido. La cocaina, Ah, tutto la cocaina la chiamate in un altro modo. A me voi bamba. Adriano mi si è avvicinato il più negro e la ditta mi dice ne voleva di bamba. A me mi diceva no ero, quando si frequentava in piazza diceva ne vuoi ero. E allora chi prima vi dico cocaina non avvia niente, va via niente. A me non mi si avvicina nessuno, forse quando si stava per avvicinare mi riguardo che adesso se ne scappano, che? Ah, che tu sei arrugato? Cosa c'ho qui io? Forse non si deve chiare. Carlo, alle sette è questi, che? Il mappa nero stavano nominando prima, ma ho detto c'ho quella roba che era la scossa io, ero qua di diventare bambito, blanchito. Dici quanto siete monelli, che? Allora poi bisogna darvi un po' di zucchero, raga. Allora, dove sono adesso? All'incrocio con via Grazia dell'Etta, fermo al semaforo. E allora ti arrivo forte io. E a voglia, già vi sento bene. E io come ti arrivo? Tutti fondo scala. Non vi posso dare altri riscontri perché in macchina ce l'ho fatto la radio, ma vedo tutti i LED illuminati, capito? E siamo a tiro di schioppo, che la zona lì, capito? Io bene vi sto arrivando, che ho l'antenna piccola. Qua sei 9.25, la rete 5. E una quarantina ne ho pure caricati. Cappa, io ce l'ho stesso segnale di Tunino. Comunque, io oggi ho mangiato quasi niente a pranzo, tanto per dirvelo a voi. Posso dirti mezzo pacco di patatine, quelle non salate, e mi è passata la fame. poi quando ho fatto un pisolino, quando mi sono alzato, due posti. Adesso dopo mi faccio la mella, pasta asciutta al salmone. Io invece ho mangiato tortellini con la panna e pancetta affumicata e poi i gamberoni. E domani mi faccio le pennette alla capitanese, con salsiccia che ci va, la panna nel sugo e tutto, mamma mia, quante buona. Oia, mamma mia, sempre bisogna di mangiare. Niente, oggi siccome è il mio compleanno, io mi sono comprato le passerelle, quelle buone, e ho trovato aperto dietro via Roma, dove c'è la facoltà di Magistero, da Murizio era aperta quella pasticceria, perché tutte le altre ne ho vicino a casa, molti lunedì chiuso. E niente, stasera ci prendiamo la pizza e mi bevo un paio di birrette. Comunque, auguri allora, quindi eri via Maurizio Zaffarino, sì, sulla destra Monito, la pasticceria la conosco. Bene, bene, anche io vado proprio giù, c'è il bar caffè, mi prendo un bel caffè sempre là. Bene, bene, oh Gianni, riprendi, meglio parlare di zucchero che con voi siete troppo con le piccherie in mano. Auguri Carlo, dai, auguri, non lo sapevamo, era il tuo compleanno. Non ti chiediamo quanti anni hai compiuto. Ancora sono dentro i 50, ancora per poco. E allora sei un giovanotto, auguroni. Altro che noi vecchi decrepiti, anche io sono giovane, vicino. Grazie degli auguri comunque a tutti. Hai capito? Ci metti in mezzo a tutti quanti, anche a me, che sì, io sono il più giovane, no? Che... dillo Dorra che vi credimmo, io sono il più vecchio, me, il più giovane è Gianni, no? Anzi no, Carlo, poi c'è Gianni, poi ci sono io, giovanotto, e tu che sei vecchio decrepito. Di lui è che sono un mezzo giovano, tutti mi danno, scusi, ma cosa c'ha, 36 anni, io noni. Che si gira? Cazzo sotto, sei di mare. Carlo, mettila a posto tu. Come, Tony? Mettili a piombo queste persone. Già sono già piombati, sì. 36 anni. Vecchio decrepito. Ma tu devi mangiami la volta ancora. Hai qualche anno in più di Lattarino, ma... di poco, però non so col bacolino, grazie a Dio, come hai detto tu Gianni, giusto appunto. Però c'era uno sotto, forse vi siete sopravvondolati, non so con chi. Lattarino, tu stavi parlando sotto Gianni. Forse ero io che ho detto, Miami la volta ancora. E anche noi, grazie a Dio. Mi va a giurare che vuoi che cosa? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Dalle la fai nera, pizza, tutto quello che vuole. Ha già mangiato, si è preso pure il premio. E perché il premio? Cosa ha fatto di novità? Quando lui farà bravo che ci mangia tutto, oppure che scende da solo a fare la pipì, io gli do un pezzettino di viuzze. Lui è abituato così e viene, te lo chiedemi. Cosa ti gridi? Chi ti molla? Subito viene e ti domanda, si bosa in chivi e tabaida. Se non rispondi da baggia. Allora sì che c'è bravo. E come si chiama questo tuo cagnolino? Curti si chiama, è piccolino, mi bello, vero? Che bello lui. È un bel simpatico. Come si chiama? Kurt. Ah? Kurt, come Kurt il riso, Kurt. Ah, Kurt. Anda bene, Kurt. Proprio giusto. Avanti, Carlo, dove sei? Me ne sto rientrando a casa adesso. Ho fatto un giro l'osso, stavo andando dall'altra parte e poi ho visto che sono le 8 meno 4 come ne rientro. Sono tutta la sera in giro. Con la scusa che è il mio compleanno, comprando una cosa e l'altra, e adesso me ne rientro. Nel caso ci sentiamo tra un po' se attacco a casa un attimino. Sono in via Filippo Turati, Filippo Garavetti. Vabbè, no, io troppo chiudo perché devo prepararmi la mia bella spaghettata. Dai, ci sentiamo la prossima volta. Avanti già. Allora io sto chiudendo, dai, ciao Carlo, ciao Natalino, Tonino, io faccio correttivo, devo andare a farmi la palina. E poi mi guardo un po' il telegiornale, dai, ci sentiamo, sento troppo tardi oggi, quindi mi dispiace ma io vado via. Ma io sono entrato tardi già. Ero fuori e non è che posso stare tutto il giorno in casa chiuso come un coso. Ero anche vicino a casa di Natalino, mi sono fatta anche la moglie, l'ho salutata. Andrei, ho fatto qualche commissione, sono entrato poco fa, tutto qua, ho visto l'orario, ho detto a me qualche uno lo trovo in frequenza, e infatti ho trovato a voi. Va bene, dai, buon cuore X, cuore T, buon guardate TV, buon le farine, buon tutto. Ci sentiamo Gianni, avanti Natalino. Il generale dalla chiesa stasera su Rai 1 a puntate, deve essere bello, un filmone deve essere quello. E Gianni, proprio che passano i confetti, se ne andendo. No, poi cominciate a parlare di pasta, di questo e dell'altro. Ciao ciao, io me ne vado, mi risuccio. Lui poi viene la voglia e deve svegliare che c'è lui telefono a quella persona, fa prima passeria, devono i bugoloni. Arrivato al punto che la gente mi saluta, mi scrive ciao, buongiorno e buon buon buone. Grazie. Vai, non ne diciamo più, da. Andare, ci sentiamo ragazzi, dai, statemi bene, ciao ciao. Ok, ciao già, stammi bene, ciao Tony. Da Natalia anch'io vado via, che dobbiamo preparare la spaghettata, che oggi ho veramente appetito. Ciao Natalino, saluto a tua 50, ciao Carlo se si è con l'ascolto, c'è a caso, vabbè, eventuali ascoltori. Ciao a tutti, cuore di per me, ciao ciao. Tonino, ci sentiamo alle prossime, ciao Gianni, che anche tu te ne stai andando a fare la ricarica, ciao Natalino, sono arrivato, sono sotto casa, se mi sentite, ce la risentiamo, ciao a tutti, buona serata e buona carica. Ciao Carlo, ciao Tonino, la 50 ricambia saluti, alle prossime, e anche eventuali SWL all'ascolto. Ok, ci sentiamo sempre Carlo. Ciao di nuovo a tutti, ci sentiamo, grazie. Ciao ciao.